Simo X. Andrews Rise. X-Stage Volume 2. RK. XCX. Hey, boom. One check, spacchiamo tutto. Frate, siamo pronti. 2012. Dai. Sfondiamo tutto con sto disco. Sì. Yeah, Andrews Rise, Simo X, Mad Boys, a casa. Tutta la ribalta che ribalta questa scena. Andrews Rise si salta e salta e salta in aria il sistema. Questo X-Tape, parte due esperienze rimpianti. Sono già troppi a 25, chissà quanti a 50 anni. Tra me te la differenza la spiego se non la sai. Voi cresciuti con il tag su Facebook, io col tag live. Ma la situazione qua è sempre la solita. Io che rappo dentro questa stanza nebulosa come Andromeda. Mi hanno incoronato il più bruciato, tutto incorodato. Che son nato un toro, un bradipo, son diventato allucinato. Nella mente pesano gli anni del matrix. Ma capisco ancora che sei un pacco come Gavin Harris. Io trito l'erba dentro trita, erba e l'erba trita me. Io sono pretesto per rappare, non è un testo mi apre. Simo X sopra un foglio la mia merda. Se tu vuoi fare il leone al massimo sembri leone di Lernia. Fanno tutti brutto ma sono dei bacchettoni. Io gli levo le mutande senza togliergli i pantaloni. Nelle canzoni metto l'anima ed il cuore. Se mi vedi che corre perché io sto scappando dall'ispettore. Per favore non lo voglio cazzettone. Se io odio sbirri infami sicuramente ci sarà una ragione. Non vado dietro alla massa, è troppo facile, fai presto. So che in mezzo alle merde c'è pure lo sbirro onesto. In ogni testo pesto, adesso testo quanto valgo. E se sto mondo mi ha buttato giù lo sfido e lo risalgo. In ogni barra c'è una bomba atomica. Ho fatto sentire il tuo pezzo alla mia tipa. È ancora in bagno che vomita. Simo spacca toni, fra, tu sei contro ogni logica. Non reggi un cazzo e ti ubriachi anche con l'acqua tonica. E domina come la discoteca la mia crew. Mette uova in faccia come se andavamo in puttan tour. Ciao, yo,